In una mia lettura quotidiana della parola di Dio ho notato un particolare dal quale ho ricavato un bene immenso. Leggevo nel libro di Esdra che il popolo di Israele, dopo essere ritornato nel suo paese, iniziò a costruire l'oggetto più importante della loro fede, cioè l'altare dei sacrifici. Ecco la descrizione della scena. Ristabilirono l'altare sulle sue basi, benché avessero paura a motivo dei popoli delle terre vicine, e su di esso offrirono olocausti all'Eterno, gli olocausti del mattino e della sera. Esdra 3:3. L'ordine di costruire l'altare proveniva dal re persiano Ciro, il quale lo aveva ricevuto dell'Eterno Dio. Di conseguenza, essi non avevano incertezza alcuna che si trattasse della volontà di Dio. Ma, nonostante ne fossero consci, non erano tranquilli, perché avevano paura dei popoli vicini. Avevano paura, pur facendo la volontà di Dio. Anche la vita di Gedeone è stata caratterizzata dalla paura, Giudici 6:27-7.10, e malgrado tale sentimento fece tutto ciò che l'Eterno gli disse. Sulle prime si sarebbe tentati di giudicarli come uomini di poca fede, ma, forse per l'età, forse per l'esperienza, di queste vicende ho captato il lato umano e soprattutto ho riscontrato nella mia vita, e non solo la mia, che spesse volte si compie la volontà di Dio e ciò che è giusto, non nel clima ottimale o nella disposizione migliore, bensì nel mezzo di trambusti, perplessità, paure, affanni, i quali a prima vista potrebbero sembrare poco onorevoli davanti a Dio, ma sono le inevitabili conseguenze dell'imperfezione che avvolge il creato e noi. È vero che quando uno compie del bene ed è consapevole di fare delle cose giuste, non dovrebbe avere nessuna paura o tentennamento. Ma poiché umani, siamo ancora soggetti a sentimenti e a tensioni a volte incontrollabili che fanno parte della nostra natura imperfetta. Ho imparato questo, in modo particolare, quando mia madre è venuta ad abitare in casa mia perché, ormai novantenne, non era in grado di gestirsi completamente da sola nonostante fosse ancora in piena forma, autosufficiente, con una presenza attiva e una lucidità non comune per la sua età. Benedico Dio per questa esperienza. Perché una cosa è sapere che forse prima o poi i tuoi genitori verranno ad abitare per un periodo a casa tua, altra e provarlo. Il cambiamento è a dir poco traumatico, e non solo per la persona anziana, ma perché tutto deve essere visto, rivisto, pensato, adattato a nuove situazioni. Dopo aver trascorso anni e con fatica a trovare un certo equilibrio nella convivenza tra te e tua moglie, ecco che di colpo subentra in questo rapporto una terza persona con la sua volontà e le sue lecite esigenze. È vero che un bambino quando nasce porta anche lui uno scompiglio tra due sposini abituati a gestirsi da soli, ma la persona anziana è diversa, perché diversa è l'età. Un bambino piccolo lo metti a letto e ci sta. Ma una persona anziana, se non vuole andare a letto, rimane alla tua presenza anche quando hai voglia di stare solo. Senza parlare poi delle tensioni dovute a relazioni nuove e nuovi problemi. È giusto vivere con le tensioni quando sai che stai facendo la volontà di Dio? Non dovrebbero queste essere assenti quando si rende ai genitori l'onore loro spettante? L'ideale sarebbe che tutto andasse liscio come l'olio, eppure per compiere ciò che è giusto bisogna vivere in un clima che non sempre è ottimale. Che dire poi quando si tratta di portare tua madre in una casa per anziani? È giusto o sbagliato? Sto scaricandomi di un dovere? Oppure lo faccio per il suo bene? Quanti interrogativi, quanti dubbi, quante paure, quanti scontri di opinioni? Possibile che per fare una cosa giusta occorra tanta fatica, tanti interrogativi? Ora so di aver preso la decisione giusta. E solo il mio sentimentalismo di figlio mi impediva di vedere la retta soluzione. Ma perché devo pormi tanti problemi, anche per fare ciò che è lecito? Perché avere delle paure per fare alla fine la volontà di Dio? Devo allora tener conto dei miei sentimenti, oppure no? Con profondo dispiacere e tantissimi interrogativi ho deciso di portare mia madre in una casa di riposo solo per poche ore al giorno, cosa che non volevo fare, e intanto ero combattuto da sentimenti contrastanti. Stavo in pensiero, non ero profondamente convinto e sereno. Perché tutto questo? Non avrei potuto svolgere il tutto con più serenità. Dopo un netto rifiuto per andare in questa casa per anziani, dopo aver discusso animatamente per questa scelta, alla fine mia madre è stata più che soddisfatta di andarvi tutti i giorni. Ma perché arrivare a compiere cose rette, in modo così travagliato? Che posto hanno questi turbamenti nel fare il bene? Se sono giusti, perché allora la verità per imporsi deve trovare tanti ostacoli? Che peso hanno i miei scombussolamenti nel fare ciò che è giusto? Qual è il loro valore morale? Forse sono interrogativi assurdi, forse non sono neanche reali, forse, forse, ma intanto esistono. E sono esistiti, perché è sempre più evidente che quando si fa la volontà di Dio o si mette in pratica ciò che è retto, il più delle volte ci si scontra con mille difficoltà concrete ed emotive. Perché i miei sentimenti non devono essere allineati con ciò che è giusto? Perché questo continuo contrasto? Perché in cuore mi sale in gola quando so che sto facendo ciò che è giusto? Ricordo di quando ero appena diventato un figlio di Dio e mi capitò di presenziare ad un convegno assieme a più di un centinaio di altre persone. Ad un certo punto fu rivolto l'invito a pregare pubblicamente. E, personalmente, ardevo dal desiderio di farlo, ma il mio cuore era impazzito dall'agitazione. Sapevo che non c'era nulla di male, ero cosciente di desiderare una cosa giusta, eppure i miei sentimenti mi giocavano un brutto tiro. Perché questo scontro tra la mia volontà e i miei sentimenti? Non sarebbe più facile, quando si desidera una cosa giusta, poterla fare senza traumi emotivi e senza sconvolgimenti mentali? Perché quando si entra nel periodo della pubertà si è travolti da mille domande, da continue instabilità sentimentali, da inutili e apparentemente vane paure? Perché la pubertà è così traumatica? Perché la mia personalità giovanile, per crescere, deve scontrarsi con la personalità dei miei genitori e poi con quella degli altri? Non sarebbe più facile che tutto avvenisse senza problemi? Se tutto avvenisse senza sensi di colpa, sarebbe anche auspicabile una situazione del genere, come del resto avviene nel regno animale. Ma perché avere sensi di colpa per poi scoprire che in fondo non c'era nulla di male in questi scontri di personalità? Questo crea il problema nel problema. Infatti, che la vita sia complessa, piena di attriti, di lotte, lo si impara fin da piccoli. Ma si rimane scioccati quando, per un fattore morale, si provano dei sensi di colpa nel fare ciò che è giusto e, in seguito, si arriva a scoprire l'inutilità di quelle sensazioni, o che addirittura non dovevano esserci. Intanto hai vissuto male, non eri completamente sereno, come è, per molti cattolici, il fattore morale nella sfera sessuale. Per anni delle coppie hanno vissuto la loro sessualità con grandi sensi di colpa, per poi scoprire, alla luce della parola di Dio, che questi erano inutili e per lo più dannosi. Mi sono trovato anche io in una situazione simile, quando decisi di andare a dormire in un'altra stanza. Mia moglie era dispiaciuta, mentre io mi dolevo per il suo dispiacere. In seguito, tuttavia, lei non smise di ringraziarmi per la scelta intelligente. Supponevo che fosse felice di poter dormire da sola, ma perché prendere decisioni opportune e giuste, tra mille interrogativi? Devo dare retta a questi interrogativi di coscienza, oppure no? Questo è il punto. Forse queste riflessioni hanno posto più domande che risposte, ma più passa il tempo, più mi rendo conto che l'importante non è avere le risposte, ma accettare la vita così com'è. Per migliaia di anni, gli uomini si sono chiesti come iniziasse la vita di un bambino e come si formasse nel ventre della madre. Ma questo non ha impedito alla razza umana di procreare e di accudire la prole. Però non serve a nulla non porsi delle domande quando salgono alla mente. Non serve nascondere dietro a un velo il proprio volto. Voglio essere come una donna musulmana, barza, senza velo, cioè colei che non nasconde il suo volto e si mostra alla gente, ma soprattutto voglio accettare la sfida che Dio pone spesse volte nella sua parola. Sfida che dopo queste riflessioni diventa chiara, comprensibile, opportuna. La stessa sfida che l'Eterno Dio fece a Giosuè prima che conquistasse la terra promessa. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non aver paura e non sgomentarti, perché L'Eterno, il tuo Dio, è con te dovunque tu vada. Giosuè 1.9. Dio chiede a chi ha posto una reale fede in Lui di non aver paura, di non avvilirsi, perché, comunque vadano le cose, non si è soli. Non si è abbandonati, non si è in balia degli eventi piacevoli o spiacevoli della vita. Dio conosce la nostra natura e si ricorda che siamo polvere, Salmo 103.14, che siamo deboli, fragili, complessi e complessati, e che per compiere ciò che è giusto e buono agli occhi di Dio, il più delle volte occorre fare violenza ai propri sentimenti, Matteo 11.12, è necessario reagire e sforzarci con un atto di volontà, Luca 13.24, 2 Pietro 1.10, a non soccombere allo scoraggiamento e alla paura. Per raggiungere questa meta, Dio fa la sua parte, ma noi dobbiamo fare la nostra, diversamente. L'ordine di non aver paura sarebbe insensato. Qual è il nostro compito? 1. E il primo? È certamente quello dettato nella lettera agli Ebrei. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Chi ha ogni giorno questo atteggiamento realizza che per chi ama Dio, ogni cosa coopera al bene, Romani 8.28, non è paralizzato dalla inevitabile paura, 1 Giovanni 4.18, vede ogni cosa come una sfida, 2 Pietro 1.57, e non si stanca perdendosi di animo, Galati 6.9, perché il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo, finché sia giorno chiaro. Proverbi 4.18, giorno, che personalmente bramo con tutto il cuore. Marzo 2010. Ellero.